È molto difficile spiegare come succeda e perché succeda. È anche difficile sorprenderlo, scoprirlo. Parlo naturalmente di quel minuto, o di quell'ora, o di quel secondo, non importa, in cui ad ogni nuovo risveglio di mattino la città si ritrova tutta, improvvisamente e con sorpresa, coperta dal silenzio. I grandi portoni scuri delle case popolari e della pensione compiacente si sono appena chiusi, già quasi senza rumore, dietro la bicicletta assonnata dell'ultima guardia notturna. Allora, sulle strade miracolosamente deserte della città addormentata, scende l'attesa. Eco fantasma di una remota campana, il silenzio, con piccoli passi di gatto, percorre Milano. Scorre veloce lungo i viali divenuti troppo grandi della periferia, si infila esultante sotto i portici ancora sonori e inutili, scivola compiaciuto fra una banca e una chiesa per le strade, i vicoli e le piazze del centro, attraversa a balzi la galleria, evitando con cura i costrutti geometrici delle sedie abbandonate dei tavolini, gira e gira ancora attorno ai tigli, agli ipocastani, ai cedri del Libano, ai tassi e alle magnolie dei giardini superstiti fra gli antichi palazzi. Cola nei cortili popolari bagnati di fango notturno, penetra, più prepotente della nebbia, della pioggia e del sole, nelle officine ombrose d'assurdi fantasmi di nafta ed antracite, stretti in veli di tela cerata, nei corridoi paurosi degli uffici abbandonati, nelle osterie pesanti di vino perenne di fiato, nei tram allineati in rimessa, grevi ancora di sudore e di piedi accaldati. Il silenzio si impadronisce senza violenza della città inconsapevole. Spegne con un soffio gelato le ultime voci, ormai pallide e opache, il grido della civetta sul tetto antico di San Simpliciano, il fischio remoto di un treno sperduto in uno scalo alle soglie della città, i sogni agitati di sospiri degli adolescenti, le parole difficili e dure di un tardivo mercato d'amore, gli alterchi degli ubriachi, il pianto angoscioso dei lattanti negletti, l'estremo saluto degli amanti. Per un minuto, o un'ora, o un secondo, non importa, la città smarrisce nel tacere inspiegabile d'ogni voce anche il senso, il peso e la dimensione della sua terribile esistenza sonora. Sul pulsare segreto e interiore del suo ritmo biologico, inarcata e tesa fin quasi a spezzarsi in ogni minima particella dell'aria, la città aspetta. Lyra, o havi min blæ, hyllir undir dranga geislum stafar sól á sæ. Signir grund og tanga. Út með sænum einn ég geng, að hrannir falla þeir í blænum hörpu streng. Haf mig annað hjalla. Við þann óminn eik ég spór, út við svarta dranga, það eru hljómar þínir vor. Þeir til hjarta ganga. We started in the suburbs of smaller cities, and as we followed the nomadic call, our nobler instincts led us further from society's centre, westward, to a cabin hoisted aloft on faulty foundations far above the Nether Valley, where the rain-soaked earth shifted beneath us and trees caught like kindling, smoke clouds ripening a vintner's sun. But part of us refused to follow. Material distractions beckoned, rallied. Snagged would return to the cities on day trips and long weekends. Self-aversion, anonymity found only in the midst of bricks and mortar, the hustle of strangers. We were worldly people, after all. But the haze of the rural, the agents of pollination, clung to us, sparked like hayseed halos in the western sunlight. No one led on, they'd noticed, but we saw, we knew. I watched my parents as they stood in a crowded Euston station up fresh from the country, fresh suitcases at their sides waiting on my arrival, illuminated in an otherwise sea of grey, not of this world, sea of grey. We were tempted back repeatedly until the lure of the cosmopolitan lay beyond reach. We moved east into the forests and mountains where life's desires tore us apart. How cruel to find oneself alone at that altitude. Weren't we simply at what point did the fear of numbers set in, and the recognition of internal isolation place us outside of belonging? But then wasn't that always the case? Weren't we simply allowed to forget? On Temple Mountain I threw down a rope that others might follow. No one came. Thank you. lamp's flare, signal flare, roar now, anxiety soon, eaten cold, stepping away. Doppler effect, Christopher Columbus, border crossings, Australian passport, primitive cartography, land partition. Hotel Hyperion, Vanuatu Moon, Ocean Island, Limited Cities, Urban Biology, Urban Myths, Millennial Fables, Domestic Archaeology, Midden Places, Under Berlin, Round Vienna, Sacré-Cœur, Universal Andalusian, Empty Texas, Melbourne Elegies, Street Singe, Cafe Poet, Little Blazing shoes, authentic local, red movie, English subtitles, dark laughter, ethnic radio. Immigrant Chronicle, Sputnik's cousin, Depot Girl, Minor Pageant, Phantom Dwelling, Eighth Habitation, Family Room, Studio Moon, Typewriter Music, Porch Music, Sugar Hits, Blue Notes, Grass Notes, Blue Grass, Land Window, Earth hour, fast forward. Time to match. First light. Uncommon light. Canvas light. Gasoline kisses.